Il numero 3. Il terzo passo ci apre alla creatività e alle potenzialità. Siamo nel chakra del plesso solare che manifesta la volontà, mostrandoci che la strada per superare la vergogna è quella di non prenderci troppo seriamente. Nei tarocchi, la lamina dell'imperatrice rappresenta l'esplosione creativa, l'abbondanza e la pulsione vitale. Se guardiamo alle virtù e ai peccati capitali della dottrina cristiana come archetipi al di là del precetto religioso patriarcale, la virtù cardinale a cui si fa riferimento è la fortezza, che infonde costanza e fermezza nella ricerca del nostro cammino, mentre l'ostacolo suggerito dai peccati capitali è l'accidia, quell'essere indifferenti, pigre o inerti, tanto da addormentare ogni emozione e annullare la volontà. La domanda che rivolgiamo alle quattro mistiche è come ci poniamo nel mondo? Il carbone vivo è il terzo nome descritto da Advaith, in cui la Minne, la signora amore, infiamma lentamente gli amanti che si accendono per lei ed iniziano ad agire seguendo i suoi consigli. I canti 34 e 43 mettono in chiaro cosa vuol dire mettersi al servizio della Minne. Il regno a cui amore ci esorta e la carica che ci ordina di svolgere è praticare l'amore e null'altro con ogni servizio che ne consegue. Chi in fedeltà comprende come operare in tutti i sensi verrà tutta catturata dall'amore e un tutt'uno sarà nell'amore. Chi vuole essere perfetta abbia umiltà e in ogni sua possibilità rimanga umile e tutte le sue opere saranno buone e null'altro gli farà bene. In tutto uguale, nella forza, nel successo, perché mai ha successo in amore chi si attribuisce l'opera dell'amore. In una delle lettere indirizzate alle sue sorelle, Advaith esprime con chiarezza questo modo di agire. Ciò che tu ritieni che possa al più presto e nel migliore dei modi ricondurre la pace, eseguilo. Buttarti ai suoi piedi e pronunziare parole di pace, fare atto di riappacificazione, nulla devi lasciare intentato, né per tema di ire, né di danni, né di scorno. Se è vero, almeno, che tu vuoi dal divino che sia tuo amore e tuo sposo. Se orgogliosa tralascerai ancor questo, ti troverai a molti mali passi. Di quanto puoi privarti, privatene, e di ogni cosa prendi appena quanto ti fa bisogno. Tienti al di fuori, tanto umile che Dio non abbia nulla a ridire sul tuo conto. Dopodiché, dentro di te invece, sii tanto libera e tanto sii ardita da protenderti ogni ora verso di lui in persona, col cuore desolato e dolente. Per Beatrice, il terzo modo d'amare porta l'anima a uno stato di disagio e miseria, per l'inadeguatezza e l'incapacità dell'essere umano di servire il divino e rendergli onore così come vorrebbe, dice infatti Beatrice. Grande è la sofferenza nel desiderio incessante di quel che non può ottenere. Questo compito di cui l'anima si prende carico è una sfida autoimposta, ardua e infattibile, ma il desiderio di incontrarlo è sempre più forte. La manchevolezza e l'insoddisfazione del proprio operato la sprona a sopportare ogni pena e a lanciarsi con veemenza in qualsiasi azione d'amore. La vita diventa un inferno e un tormento a cui solo l'energia divina può porre rimedio, accompagnando l'anima verso la successiva forma d'amore. Il terzo stato di grazia per Marguerite è quello in cui l'anima, per amore, è chiamata alla rinuncia delle opere di bontà e perfezione che ama compiere, iniziando a comprendere di non affidarsi alla propria volontà, ma solo a quella divina. Per fare questo occorre agire in modo opposto alla propria volontà, soprattutto per ciò che concerne il corpo. È necessario imparare il distacco dall'io personale e prendere congedo dalle virtù, l'appropriazione, il possesso, la pretesa del merito e del valore creano attaccamento. Dama amore spiega che, tramite Dama Ragione, le virtù chiedono obbedienza e rendono l'anima schiava. Quando l'anima si affranca e si libera di questo fardello, senza pretesa di avere o di essere, le virtù non sono più dentro di lei, ma sono al suo totale servizio, senza opposizione e fatica. esse diventano fruibili interamente attraverso l'amore. Scrive infatti Marguerite: tali anime hanno le virtù meglio che nessun'altra delle creature, ma non ne hanno l'uso perché non sono affatto in loro come di solito erano, e inoltre sono state asservite ad esse a sufficienza, tanto da esserne affrancate d'ora in poi. Chi domandasse loro qual è il maggior tormento che creatura possa soffrire, risponderebbero che è dimorare nell'amore ed essere nell'obbedienza delle virtù. L'umiltà è la madre di tutte le virtù, perché ci insegna a riconoscere il nostro legame con le necessità fisiche e con le circostanze della vita. Essa è quella sapienza che ci accompagna nella dolorosa ammissione della presunzione dell'ego e del valore che diamo a noi stesse, ricordandoci costantemente che siamo fatte della sua stessa sostanza, humus, la terra. Se da una parte le necessità fisiche e biologiche ci rendono vulnerabili e finite, costantemente bisognose di interazione con l'esterno e mancanti, allo stesso tempo, chi è umile e nobile, perché tale riconoscimento porta all'eliminazione del superfluo, al distacco e ad accettare che le necessità non possano essere trascese ma solo soddisfatte, perché proprio in esse risiede la perfezione e la meraviglia della creazione. La terra, nell'umiltà, riceve l'influsso celeste. Scrive ancora Marguerite: quest'umiltà che è zia e madre è figlia della Divina Maestà e nasce dalla divinità. La divinità è madre e antenata dei suoi rami, i cui polloni danno tanto frutto. Ne taceremo, poiché parlarne li guasta. È liberata da ogni servizio, poiché vive di libertà. Chi serve non è libero, chi sente non è morto. Chi desidera vuole, chi vuole è mendico. Chi è mendico ha mancanza di divino appagamento. Riguardo ai concetti di libertà, necessità e umiltà, viene immediato il parallelismo tra Marguerite e Simone Weil, la quale afferma nei suoi quaderni: la necessità è il criterio supremo in ogni logica. Soltanto la necessità mette lo spirito a contatto con la verità. Per approfondire, rimandiamo alla classe della Scuola delle Donne del 19 gennaio 2022, intitolata Le mistiche della libertà, seconda parte, di cui viene lasciato il link in descrizione. Nelle terze dimore, Teresa de Avila ci guida alla scoperta dell'illusione e del giudizio, come un vassallo che si immagina di essere entrato nelle grazie del re. Si pensa di essere nei favori divini per il bene che si crede di portare nel mondo, quando per il re non è importante l'opera del vassallo, ma il suo intento e la sua determinazione. Così le aredità e l'importanza personale portano ad illuderci sulla nostra essenza e a procrastinare nella via spirituale. La ragione ci inganna e insinua in noi preoccupazioni e timori legati alla salute del corpo e alla realizzazione della gioia terrena. Fa eco Edith Stein nel Castello dell'Anima, ricordando che non siamo noi le protagoniste e le artefici del nostro cammino spirituale. Questa trappola è insidiosa perché non vi è alcun trattamento privilegiato per il servizio che prestiamo al divino. Come le altre mistiche, anche Teresa sottolinea l'importanza di agire nell'umiltà e nel servizio con opere che incarnino il nostro amore e la nostra dedizione. Inoltre consiglia di tenere ben presente l'obiettivo per camminare veloci verso la meta, distaccandosi dai diletti terreni e affidandosi alla volontà divina che opera per il nostro maggior bene. Per fare ciò è necessario imparare dai propri difetti, visti da Teresa come limiti autoimposti, senza colpevolizzarci e senza interessarci di quelli degli altri. Inoltre, Teresa insiste sulla necessità di circondarsi di persone distaccate dalle cose terrene, esercitandosi nella prontezza dell'obbedienza nei loro confronti. Ciò evita di esercitare la volontà personale e di ricadere nell'illusione. Servizio, sacrificio e umiltà sono le tre parole chiave di questo passo e sono fortemente interconnesse. Il servizio è il dedicarsi senza giudizio e aspettativa a ciò che siamo chiamati a compiere. Il sacrificio è il sacrum facere, il sacro fare, ovvero l'agire con la consapevolezza che ciò che ci circonda è parte della nostra realtà e perciò necessita di essere trattato con onore e rispetto. La terza, l'umiltà, risponde alla domanda che ci siamo posti all'inizio di questo passo, rappresenta il modo di porsi nel mondo. Solo nell'umiltà si ha la possibilità di riconoscere il dominio della necessità e lasciare andare ogni attaccamento. Siamo bisognose perché siamo umane e non c'è nulla da temere o da vergognarsi per questo. Condividere e onorare i propri bisogni è la chiave che apre la porta verso il prossimo passo. Come dice Simone Weil, l'umiltà è la radice dell'amore.